sera mi facevi quasi pena, ubriaca bella vera, mi sembravi mezza scema, ma poi ho capito che era tutta scena. E dopo quella sera t'ho portata fuori a cena, e a cena che ho avuto una bella sorpresa, sorpreso che oltre bella sei una donna vera, la mia signora. Ora tutto il resto è noia, da quell'ora ad ora scrivo la nostra storia. Quanto è bello il sole, quanto è bello il mare, se tu fossi il mare io non so nuotare, lasciami affogare. Se tu fossi il sole ti prendo tutta, allora di puttana ho protezione, lasciami bruciare. E se poi fa male tu sei crema dopo sole, allora è vera vera come te amore, stella cometa cascata sulla mia strada. Mi guardi e ridi perché sai che non mi basti mai, senza te sono nei guai, non mi basti mai, se stai un po' te ne vai, non mi basti mai, dalle tue braccia morirei, non mi basti mai. Sto male tu in mente, sto bene tu in mente, nel passato, nel presente, sempre presente. Quel pezzo d'amore la gente ti sfotte, sfottesse pure, non mi importa niente, per me l'importante è vederla sorridente. L'odio è un perdente, l'amore è un vincente, il diamante è per sempre, il tuo sorriso smagliante è il più bello del planeta, il tuo sguardo è brillante. Quante stelle nel cielo stasera ci sono, mi fermo a guardarle, guardo bene e ti trovo. Da quando si nasce si cerca un tesoro, e quando lo trovi lo tieni al sicuro. Ho scritto una canzone per te, non ci credi Sorridi, abbassi gli occhi un istante, dici non credo di essere così importante, ma dici una bugia e fatti scappi via. Mi guardi e ridi perché sai che non mi basti mai, senza te sono nei guai, non mi basti mai, se stai un po' te ne vai, non mi basti mai, tra le tue braccia morirei, non mi basti mai. Alexito, a.k.a. James Rips Music, a.k.a. Johnny Plagio, un altro viaggio, amore, una canzone per te.